Innamorati del femminismo. Frequenze sui generis. Un buon pomeriggio da Anna e benvenuti a questa prima puntata del nuovo format Frequenze sui Generis, che mette insieme l'esperienza dell'anno scorso. Se vi ricordate di me, di Alina, il programma si chiamava Sui Generis. Adesso Alina non è più qui con me in studio, spero sempre di riportarcela, però neanche questa volta sono da sola. Infatti insieme a me ci sono le ragazze che prima conducevano Frequenze di Genere, da questo il nuovo nome, e buongiorno a tutte. Un saluto anche da parte nostra, qua in studio insieme a te Anna siamo in tre, ci sono io che sono Mari, io che sono Giulia, ciao a tutti, e Viviana. Allora Anna, raccontiamo un po' come sarà questa nuova trasmissione, questa fusione fra due realtà diverse e simili allo stesso tempo. Sì, beh, diciamo che è un programma che si occupa di femminismi e questioni di genere, quindi di realtà diverse ne dobbiamo affrontare tantissime sempre. Direi che è il nucleo centrale del nostro programma, mettere insieme realtà diverse, quindi io spero che sia un'ottima occasione per offrire nuovi punti di vista nostri e soprattutto nuove chiavi di lettura per poi chi ci ascolterà. Beh, un altro punto centrale del nostro programma, per chi ancora si ricorda di Frequenze di Genere, era sicuramente la musica che, come forse qualcuno si ricorderà, era sempre scelta dalla nostra Giulia. E quindi Giulia, la fatidica domanda: che cosa hai scelto per questa prima puntata? Che bello, che emozione ritornare qui in radio. Allora, per questa puntata, visto che è l'inizio, diciamo, è una puntata pilota, si può dire, ho scelto un grande classico che, diciamo, ci illumini la strada come faro rispetto al nostro percorso. Quindi ho scelto Patti Smith, non ha bisogno di presentazioni, è una grandissima artista, è una grandissima poetessa, artista, insomma, a tutto tondo. Ha iniziato la sua carriera nel 1975 ufficialmente, con il suo primo album Horses, però diciamo che bazzicava già nell'ambiente da un pochino di anni, perché è il nostro faro, cioè almeno il mio faro, poi non so, voi mi direte, l'ascolterete, e perché penso che sia un grandissimo esempio di coerenza di una persona che è sempre stata, diciamo, molto, molto coerente, molto con se stessa rispetto ai propri ideali, rispetto a tutto il percorso che ha fatto. A questo proposito vi consigliamo infatti anche la sua biografia, che è Just Kids, se non l'avete ancora letta. È veramente molto illuminante. E niente, la prendiamo come primo buonissimo auspicio, perché una cosa che mi è rimasta molto impressa quando sono stata a vederla, e è venuta in tour anni fa, è stata anche questa primavera, ha attraversato l'Emilia Romagna, è, diciamo, la capacità che ha di comunicare in un modo estremamente chiaro e trasparente dei concetti anche molto complessi, e questa cosa mi ha colpito. E visto che penso che durante questo ciclo, durante, insomma, questo ciclo di trasmissioni, ci capiterà, insomma, di parlare di tantissimi temi, alcuni molto, molto complicati, sui quali forse noi stessi, insomma, siamo in disaccordo, altri magari un po' più frufru, diciamo che ci diamo come esempio, diciamo, e come auspicio il fatto di poter essere appunto chiare e di poter muovere le vostre corde e di poter instillare anche un pochino di dubbio, di discussione, di curiosità rispetto ai temi che tratteremo. Quindi partiamo con il primo brano. Some strange music drives chosen machine. I go and I don't know why. I spun so ceaselessly. Could it be he's taken over me? I'm dancing barefoot, heading for a spin. Some strange music draws me in, makes me come out like some heroin. E dopo i buoni auspici di Patti Smith, torniamo a noi. Non so se vi ricordate, ma nella trasmissione che facevamo, Frequenze di Genere, avevamo una rubrica che si chiamava Se vi dico femminismo, che cosa vi viene in mente? Ebbene, abbiamo riproposto questa domanda a persone varie, vediamo cosa hanno risposto, che ne dite? Femminismo è una parola che da molti viene percepita come violenta, è una parola che viene abusata, spesso svuotata di significato e travisata. Credo invece che la parola femminismo abbia tanto bisogno di essere pronunciata ad alta voce, perché per me significa una cosa sola: donne e uomini che ogni giorno nel quotidiano cercano di cambiare in meglio un mondo pieno di disuguaglianza e di stereotipi. Allora, se mi dicono femminismo, io penso, la prima immagine che mi viene in mente sicuramente sono le immagini delle suffragette che protestano. Proprio visivamente è la prima cosa a cui penso. E comunque la parola femminismo in ogni caso ha per me un connotato molto positivo, e quindi penso questa cosa: positività e lotta. Allora, se mi dicono femminismo mi vengono in mente delle donne in piazza, delle foto di donne in piazza incazzate nere che lottano per riprendersi ciò che gli spetta, e cioè la loro parte di storia e la loro parte di voce. Il problema è che queste foto mi vengono in mente in bianco e nero. Femminismo è una parola che mi fa venire in mente la più grande rivoluzione che l'umanità possa sperare di portare avanti. Il femminismo è la leva che ribalta i pregiudizi in enormi possibilità, è un paio di occhiali che fa vedere il mondo a colori, è ciò che trasforma la diversità in differenza, e quindi è quello che ci apre a infinite possibilità e risorse. Femminismo è un colore, il fucsia, e femminismo è anche un'attitudine, quella all'ascolto, alla creatività e anche alla sorellanza, alla dispersione. Grazie. Abbiamo sentito i primi quattro contributi direi pieni di positività e pieni anche di momenti diversi del femminismo, perché abbiamo sentito parlare di suffragette ma anche di fucsia, che è il colore lanciato da Niuna Menos e poi abbracciato anche dal movimento italiano di Non Una di Meno, che ha riempito le piazze dell'8 marzo anche a Bologna l'anno scorso. Insomma, un passaggio generazionale quasi tra il primo e l'ultimo messaggio, forse. Qualcuno ha parlato anche di foto in bianco e nero, a me è rimasto molto impresso. Sì, e poi qualcun altro invece ha parlato di lenti a colori, quindi c'è sempre questa visione comunque di un femminismo che unisce in qualche modo e che permette di guardare alla realtà a colori, oppure invece di guardare al passato con le foto in bianco e nero, però una visione sia della storia che del presente che a me piace moltissimo, è molto positiva e unificante, no? Beh sì, direi di sì, assolutamente, ma mi chiedo, sono stati tutti così i contributi che abbiamo avuto? Quando penso alla parola femminismo mi vengono in mente due immagini. La prima è quella delle suffragette, che rappresentano l'inizio del movimento femminista mondiale. L'altra immagine invece è quella delle donne, delle sessantottine, ma anche quelle degli anni 70 successivi, che hanno combattuto per l'affermazione dell'aborto, del divorzio, e sempre per un maggiore miglioramento della figura femminile, quindi della donna, all'interno della famiglia e della società. Parlare di femminismo adesso mi sembra superato, o perlomeno mi sembra superato parlare di quel femminismo. Penso che adesso quello che bisogna affrontare, sia per le donne che per gli uomini, sia quello di una nuova tappa nel femminismo, o anche un nuovo femminismo, perché lo scenario economico, sociale, politico, culturale, perlomeno italiano, è cambiato molto rispetto agli anni 70. Le donne adesso ricoprono cariche pubbliche, sono donne di successo, donne che guidano aziende, donne che guidano colossi economici, aziendali. E quello che noi donne dobbiamo fare adesso è favorire ancora di più l'ascesa della donna nei campi che sono stati fino adesso occupati dagli uomini. Garantire che una donna abbia successo dal punto di vista lavorativo, garantire che una donna non debba solo e esclusivamente fare la mamma, perché ci sono donne che non sono nate per fare le mamme, garantire la donna in quanto tale, non in quanto essere in grado di mettere al mondo. E in questo senso è questa la nuova tappa del femminismo, quello di preservare quello che abbiamo ottenuto e accrescerlo. È anacronistico parlare di femminismo. Quando penso alla parola femminismo associo un'immagine, quella del poster We Can Do It. Ma se invece vado oltre a questa immagine, penso a un romanzo che per me è stato molto importante, che è Memorie di una ragazza per bene di Simone de Beauvoir, nel quale scrive della sua infanzia e della sua vita in generale, e quindi presenta e illustra il suo punto di vista, quello di una prima bambina e poi donna, e mette in luce le differenze nell'educazione riguardo ai bambini e alle bambine. E quindi per me femminismo significa combattere per raggiungere le pari opportunità per le donne, direi, sì. Femminismo e uguaglianza, ma anche umanità, perché se noi non riusciamo a riconoscere certi diritti e certe cose, non possiamo dire che siamo umani. Basta. Ed ecco quindi degli altri contributi di tono decisamente diverso dai primi. Colpisce molto chi dice che il femminismo è qualcosa di anacronistico, perché credo sia un aggettivo che viene utilizzato molto e spesso rispetto al tema del femminismo, no? Ci si chiede se ci sia ancora bisogno di femminismo. Io a questo proposito volevo consigliare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori un articolo di Lea Melandri che si intitola «Perché ha ancora senso dirsi femministe?». E lei scrive: «Il femminismo non è un'ideologia legata a una fase storica particolare, ma un cambiamento nella consapevolezza che si ha di sé e del mondo, un modo diverso di pensare e agire, un processo di liberazione da pregiudizi, schemi mentali, costruzioni immaginarie che abbiamo inconsapevolmente ereditato dalla cultura dominante». Io mi sono accorta che invece abbiamo tutti forse una percezione o un'idea differente di femminismo, cioè insomma, che emerge un po' da questi contributi. E forse è anche bello che il femminismo abbia tante anime e che tutte queste coesistano, coabitino gli spazi. A questo proposito, nell'ultima parte della rubrica, negli ultimi quattro contributi, ce ne sarà anche uno di una mia coinquilina russa, quindi veramente un'anima molto diversa. Non vedo l'ora di farvelo sentire, perché devo dire non è proprio tra le più schierate forse in difesa del femminismo, ma è una voce davvero fuori dal coro, visto che arriva dalla Russia, si è trasferita un anno fa, e giuro che in quest'anno abbiamo avuto moltissime discussioni molto interessanti. In questo minuto di spezzone che adesso andiamo a sentire, forse se ne può cogliere qualche tratto, ecco. Per me femminismo è uguaglianza nei diritti tra le donne e uomini. La questione è molto interessante e particolare perché l'Europa ha fatto tanto per arrivare a questo punto di uguaglianza, più o meno di uguaglianza, che l'Europa è ora. Invece in Russia questo non è molto sviluppato e sarebbe bello arrivare almeno a quel punto a cui si trova ora Europa. Ma io credo anche che il femminismo deve seguire le idee grandi come uguaglianza nel lavoro, educazione e le altre cose importanti e non prendere l'attenzione alle piccole cose come per esempio semplice gentilezza, come aprire la porta per la donna e non fare il conflitto di questo. Allora, per me già il fatto che ci sia un'etichetta femminismo evidenzia che ci sia un problema, perché alla fine è un discorso di parità e di diritti e quindi dovrebbe essere comunque una dimensione che abbiamo tutti quanti interiorizzato in qualche modo, il fatto che se tu puoi fare una cosa la posso fare anch'io, ma non in quanto tu uomo e io donna, ma in quanto tutti quanti esseri umani. E questa può sembrare una banalità, ma è un discorso che è passato veramente poco alla gente. E poi a me per esempio personalmente dà fastidio quando magari mi confronto con uomini che mi sembrano progrediti sotto tanti punti di vista e che invece mi dicono: guarda che tu sei fortunata perché in quest'epoca qui abbiamo raggiunto tanto, guarda 50 anni fa, 30 anni fa, 10 anni fa, e che secondo me è una forma di giustificazione per discriminazioni che ancora prendono piede. Allora tu non mi puoi dire guarda dove siamo arrivati, tu mi dovresti dire guarda dove dovremmo andare, perché altrimenti ci fermiamo, ci blocchiamo e non andiamo più da nessuna parte. Femminismo, quando penso a questa parola la prima cosa che mi viene in mente non è un concetto, ma sono delle persone, nello specifico delle donne, delle super donne direi, che si accorgono e si indignano del fatto che noi donne veniamo bene o male sempre legate al ruolo di essere nati per servire e procreare. Poi nel tempo libero che ci rimane facciamo altre cose, ma i meriti per queste cose ci vengono sempre riconosciuti solo marginalmente dagli uomini, ma ancora peggio da noi donne. Siamo purtroppo le prime a esiliare noi stesse in questo ruolo di esseri secondari, sempre disponibili a soddisfare il bisogno del compagno, del figlio, del datore di lavoro, perché lo consideriamo, in quanto donne, un nostro dovere. Prima di cambiare gli atteggiamenti degli altri nei nostri confronti, secondo me, noi donne dobbiamo cambiare il nostro nei confronti di noi stesse. Raggiunta questa consapevolezza, il più è fatto. Per fortuna ci sono donne la cui missione nel mondo, diciamo, è aprire gli occhi ad altre donne inconsapevoli come me. E per me queste donne, e nello specifico le donne che conducono questa trasmissione, sono il femminismo. Il femminismo è l'antidoto ad uno dei problemi che è uno dei problemi più folli della società, ovvero quello di reputare la donna inferiore all'uomo. È una battaglia che vuole come risultato la parità tra uomo e donna. Quindi non la superiorità di uno dell'altro, ma semplicemente il diritto di non sentirsi osservati o giudicati nel momento in cui si decide di parlare, bere, baciare, uscire o fare determinate cose in un determinato posto. Esattamente come può succedere a un uomo, la donna decide di ribellarsi nel momento in cui i propri diritti vengono calpestati. È un modo per combattere gli stereotipi e i paletti dettati da una società nella quale ci siamo trovati a vivere e che non abbiamo scelto noi, ma che comunque possiamo decidere di cambiare. Beh, insomma, dopo questo altro gruppo di contributi, un pensiero che mi viene è quello rispetto alla testimonianza della tua coinquilina russa, Anna, e perché fa riflettere un po', anche questo è un tema che ricorre spesso, il fatto di dire ci sono cose più importanti e altre su cui voi femministe veramente un po' scassate, perché insomma dai, cosa c'è di male se una persona ti apre la porta, cosa c'è di male se qualcuno ti vuole offrire un caffè o una cena. Ecco, personalmente il femminismo appunto anche per me è quella lente, o diciamo quel filo che riesce, è una lente che fa vedere cose e un filo che le riesce a collegare, perché in verità ci sono tante cose che noi facciamo e che diamo come per scontate, senza significato, invece all'interno dei nostri gesti, anche nei gesti più piccoli c'è un significato che, se a volte ce lo chiediamo, ci rendiamo conto di cosa ci dice della nostra società. Naturalmente non c'è niente di male a fare un atto di gentilezza, di apertura di porta nei confronti di qualcuno. Il problema è quando ci si aspetta che sia sempre l'uomo a farlo nei confronti della donna. Cioè, fare gentilezza è bello per tutti, credo, no? Sì, esatto. A me piace anche il fatto di mettere in relazione questa prima, cioè la prima intervista, il primo commento di Mila, appunto, che dice bisognerebbe concentrarsi sulle cose importanti, con invece poi quello che ha chiuso quest'ultima serie di contributi, perché è forse l'unico che ha fatto un riferimento diretto al fatto di vivere in un sistema in cui siamo capitati, che però si può cambiare. Ecco, io la vedo come te, Mari, perché per me ci sono moltissime cose che non dico che abbiano lo stesso livello di importanza di una battaglia per l'educazione o la parità dei diritti veramente in termini fondamentali, però a volte forse confondiamo, questo sì, lo concedo a Mila, la richiesta di diritti con invece il sottolineare qualcosa che è più un sintomo di un problema, nel senso che non è tanto il problema dell'uomo che apre la porta, ovviamente, però tutto l'insieme diventa poi sintomatico appunto di questo sistema in cui viviamo e che non possiamo cambiare se prima non riconosciamo, secondo me. Ci ritornate, crediamo di avervi dato molti spunti di riflessione con questi contributi. Chissà che durante questo brano anche voi non vi siate un po' messi a pensare che cosa è per voi il femminismo. E visto che questa è una puntata un po' in pillole, volevo aggiungere così una pillola anch'io rispetto a un progetto che noi come associazione abbiamo fatto all'interno di una scuola media, in cui, parlando un po' con quei ragazzi e le ragazze, e, insomma, era emerso il fatto che secondo loro il femminismo era il contrario di maschilismo, cioè per loro il maschilismo c'era quando gli uomini volevano prevaricare le donne e il femminismo era quando le donne volevano prevaricare gli uomini. Quindi anche quando si parla di piccoli gesti, di trasmissione inconsapevole di un certo tipo di sapere, nessuno aveva mai parlato a questi bambini, a questi ragazzini, di femminismo e maschilismo, eppure avevano già comunque delle informazioni nella testa sbagliate, perché il femminismo, abbiamo visto, può essere tante cose, questi contributi ce l'hanno detto, ma sicuramente il femminismo non significa dominare gli uomini e capovolgere, stravolgere il significato di maschilismo. E c'è un altro mito da sfatare, che poi è una buona notizia. Il femminismo è magnanimo, abbraccia tutti, nel senso che femminista può essere una donna quanto un uomo. Sì, esatto, anzi, secondo me il femminismo è proprio donne e uomini insieme, che è quello che abbiamo sentito anche nei contributi di oggi, che un po' erano più voci e anche con opinioni diverse, però secondo me è proprio questo il punto che a volte si perde, no, del femminismo, cioè il fatto che in questa parola, che ha una connotazione di genere effettivamente, però poi per me almeno penso che, come abbiamo dimostrato oggi, racchiuda tantissime idee diverse, però fondamentalmente l'idea è che non debba esserci una differenza basata sul noi voi, sul maschio femmina, cioè che dare un'identità a una persona solo sulla base del genere, così come può essere solo sulla base di una razza, sia profondamente sbagliato, perché poi si perde la diversità di tutte quelle persone che invece sono di più di un noi voi, di un uomo donna, di un americano, italiano, russo, africano. Personalmente volevo dire che quello che mi ha insegnato il femminismo, e per cui davvero sono grata al femminismo, è a riconoscere i miei pregiudizi, a partire dai miei privilegi, perché quando parliamo di femminismo parliamo di sistemi di potere, ecco perché non dobbiamo appunto fare differenze noi voi, ma dobbiamo parlare di quello che c'è sotto, delle differenze di potere che ci sono sotto. Quindi, non so, secondo me il femminismo è una domanda che ci facciamo dentro: come viviamo la nostra maschilità, la nostra femminilità, ma anche quali sono i nostri privilegi. Beh, insomma, questa che abbiamo chiamato puntata pilota credo vi abbia dato veramente molti spunti su cui riflettere, e magari vorreste anche voi condividere con noi che cosa pensate alla parola femminismo. Beh, sappiate che potete farlo, perché questa trasmissione ha anche una pagina Facebook, potete cercarci appunto su Facebook cercando Frequenze sui Generis e scriverci, magari, se volete dirci che cosa vi viene in mente alla parola femminismo, e noi nelle prossime puntate leggeremo i vostri contributi. Non solo, potete anche farci delle domande, noi non siamo delle esperte, ma possiamo fare le vostre domande a nostra volta a qualcun altro, diciamo, questo è il ruolo dei giornalisti a volte, di fare da intermediari, no? Quindi se volete fare domande, proporre argomenti di approfondimento, saremo lenti nel rispondere, dobbiamo trovare a chi chiedere, trovare chi sia disposto a darci una risposta, però insomma si può fare, anzi sarebbe bello che iniziasse a diventare una cosa più interattiva, no? Quindi che il nostro programma, che cerca di dare una risposta a delle domande, desse davvero la risposta alle domande di qualcuno che dietro un messaggio ci dica: voglio una risposta a questa domanda. Ecco, noi ci impegniamo a cercare una risposta se voi ce la chiedete. Bene, e per questa prima puntata è tutto, quindi da parte di Anna, Vivi, Giulia e Mari vi salutiamo e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre alla stessa ora. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, time. Understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand as the sun descends. They cannot you now. Because the night belongs to love. Because Love is a ring, that telephone. Love is an angel disguised as dust, here in my bed until the morning comes. But come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand, is the sun to suns. They can't hurt you now, can't hurt you now. Belongs to lovers, because the night belongs to lovers.